快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场。我是你的朋友古月，今天和您分享的是意大利作曲家卡塔拉尼创作的歌剧《拉瓦利》，由台湾尔迪、摩纳克、卡普奇利等演唱，吉莱瓦指挥蒙特卡罗歌剧院演出。 Allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. Date, ma forse ogni persona. Parla sommesso. E beh, lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio. Perché? Perché mi sono ancora così tarda. Piante sole, così teme mi si voglia vendicar la valli. Poi va, pazzie, però non si sa mai. Vanno a dormire lontano, ma la notte è questa. Non mi si piglia. Yeah. Thank you.

Thank you. Che alla festa le vien e via capo dir colei che così ricche vestiti die. Madonna, son mia amica. A 30 anni? Sì. Ora che il diavolo è andato il vecchio Strominger, e le sa ancora le feste si diverte. La sciagurata viene via per lui. Avanti, già avanti, la mare della verde è la cuccagna. No, una moglie così non la vorrei, vuole non per l'amore, per non capire. Thank you. danzerai con me. Thank you.

così. Merida si rifiuta la tua brava, ti deride se sopra la tua brava. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, vos sapere, dicevi, ti voglio sempre mia. Prendimi. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 Decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. La tema forse in persona. Parla sommesso, e ben lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio. Perché? Perché mi sono creatura così tarda. Piange solen, lo si teme, mi si voglia vendicar la valli. Poi fa, pazzie, però non si sa mai. Vanno a dormire lontano, ma la notte è questa. Non mi si piglia. Oh,